La parola partito viene dal latino pars, da partiri, partire, dividere, separare. Ma siccome ciò che si separa da altro rimane unito fra sé e sé, ecco che almeno nel 300 appare già la parola partito per designare un'unione fra più persone volta al raggiungimento di un fine comune tramite l'esercizio del potere politico. Di fatto dunque un partito mentre unisce divide, unisce chi ci sta e li divide da chi non ci sta. Il criterio è libero. Nella mia vita ho avuto il piacere di constatare nascita e morte del partito della Bistecca, di Libera Padania, del Movimento Tecnica o della Lista Rock, a dimostrazione che non occorrono poi grandi ideali per formare un partito. La Bistecca, soprattutto in un'epoca in cui si sapeva ancora pochino di colesterolo e di encefalite spongiforme, niente del tutto, la Bistecca poteva accomunare e dividere esattamente come il comunismo, il socialismo democratico, il liberalismo o il fascismo. In teoria, in uno Stato sedicente democratico, chiunque può dichiarare il valore intorno al quale e per il quale costruire un partito, allo stesso modo come chiunque è libero di fondare l'associazione Escursionisti Proletari o una bocciofila riservata ai Mancini. Chiunque è libero di erigere tutte le associazioni che vuole, purché se le paghi. Lui con chi si associa. A nessun titolo può pretendere che a pagare siano i restanti membri della comunità, cioè quelli che non si associano e quelli che si associano diversamente. Tutto ciò vale per tutti. Per tutti tranne per quei partiti che attualmente in Italia si spartiscono il potere, il sottopotere, già che ci sono anche il contropotere. È noto, o meglio è ancora noto in attesa di venire cancellato dalla storia, il fatto che nel 1993 un referendum popolare abbia decretato che la gran maggioranza del popolo italiano non vuole affatto che i partiti si finanzino con il pubblico denaro. Fregandosene bellamente, l'anno scorso i partiti hanno cercato di riscuotere ugualmente pubblico denaro tramite il modulo IRPEF. I cittadini con apposita crocetta avrebbero potuto devolvere loro il 4 per 1000, ma a quanto pare se ne sono ben guardati. Evidentemente ritenevano di aver già dato abbastanza. Oggi allora, senza tanti indugi e con una lungimiranza degna di un indovino, i partiti hanno deciso di dividersi 110 miliardi come anticipo di quanto i cittadini vorranno donar loro. La restituzione in caso di mancata donazione ovviamente non è prevista. Se ai rappresentanti di questi partiti si fa notare la laidezza del loro comportamento o la turpitudine con cui sviliscono la democrazia in cui dicono di credere, rispondono immancabilmente con un argomento che merita qualche attenzione. Sul fatto di disattendere una decisione del popolo tacciono invariabilmente. Ma in compenso dicono che se non prendessero soldi pubblici sarebbero costretti a prendere soldi privati. Implicito è allora che questi soldi privati potrebbero essere forieri di interessi altrettanto privati e che rubare alla luce del sole sia meglio per i derubati che rubare di nascosto. La forma ricattatoria dell'argomentazione è palese. O ci date soldi e potere nella misura che vogliamo noi e nella misura che i litigi per spartirceli ci consentono di colmare, oppure saremo molto peggio di quel che siamo. Dietro questa carota c'è un bastone nodoso e lungo così. Sono destinati allo stesso posto, ma scegliete un po' voi quello che preferite. Georg Grodek, prima allievo di Scheveninger e convinto allora dell'importanza di diete e massaggi, poi amico di Freud e convinto allora delle virtù della psicanalisi, Nel 1918 dirigeva una clinica per malati mentali nei pressi di Baden-Baden. Con cadenza settimanale, un po' da solo, un po' con i suoi malati, cominciò a redigere una specie di giornalino che intitolò Satanarium. Lo trovate raccolto e tradotto dal Saggiatore a Milano nel 96. Questo Satanarium, beh, nel quinto numero di questo Satanarium, datato 6 marzo 1918, badate bene, una mano anonima fa i conti in tasca allo Stato tedesco in rapporto al disastro della guerra. Risarcimenti, acquisto di materie prime mancanti, danni di guerra, pensioni agli invalidi, opere di ricostruzione. La somma finale, conclude l'anonimo Groddeck medesimo poi, la somma finale equivale al triplo o al quadruplo di quella necessaria prima della guerra. Beh, all'epoca le tasse che si trovava a dover pagare ammontavano all'11% del suo reddito. E lui se ne dispiace parecchio, ammonteranno al 33%, cioè addirittura ad un terzo di quello che guadagna. Seguono lacrime per se stesso, per i propri familiari, nonché improperi verso la perfida bestia dello Stato. Rileggere questi diari fa impressione, fin tenerezza. Oggi, quando qualsiasi cittadino italiano si farebbe il segno della croce con i gomiti se potesse pagare allo Stato italiano solo il 33% di quel che guadagna. Oggi, quando non siamo affatto all'indomani di una guerra mondiale, ma nel bel mezzo di una lunga, interminabile rapina. In data 27 febbraio 1918, nel medesimo Satanarium, si viene a sapere dell'esistenza di un centro di consulenza sulla guerra e di un foglio di istruzioni fatto circolare per la costituzione di una armata patriottica della donna tedesca. Al primo punto si decreta che è dovere di ogni donna tedesca astenersi con severa autodisciplina dal pessimismo e dal disfattismo ai fini di non screditare la Germania agli occhi dei paesi stranieri. Nei punti successivi si insiste sul concetto, si va anche sulla pratica, invitando a tener duro allegramente parenti, domestici, impiegati, conoscenti e fornitori, a incutere allegria nei luoghi pubblici, nelle strade, in metropolitana, agli sportelli, nelle sale d'aspetto e durante le code per ritirare i buoni d'acquisto oppure facendo la spesa. Si invita altresì a identificare per nome e cognome chi si esercita nell'arte del lamento, chi diffonde dicerie e chi influenza negativamente il clima sociale, denunciandolo poi al centro di consulenza sulla guerra medesimo. Perfino allorché la donna tedesca andasse a teatro o al cinema, è consigliato di fare commenti ottimistici sottovoce e allorché frequentasse ritrovi o caffè concerto, è esplicitamente prescritto che si senta in obbligo la donna tedesca di richiedere all'orchestra l'esecuzione di canzoni patriottiche. Qui si vede ancora una volta come le radici del nazionalsocialismo abbiano trovato un terreno fertile e ben dissodato dove infiltrarsi, ma si vede anche che la nostra attuale vita sociale, in un tempo che è definito di pace, di rose e di fiori, non è poi così diversa. È sufficiente che il popolo italiano acquisti meno biglietti della lotteria di Capodanno perché si prendano le opportune contromisure e si dia la caccia al disfattista. L'ottimismo è di rigore e di regime, e prevedere dunque che i cittadini italiani vorranno versare centinaia di miliardi ai partiti tramite il prossimo modulo IRPEF è in ultima analisi la forma più tangibile e palese del buon governo. Una differenza con la Germania del 1918 però c'è, sì. Là c'era un solo centro di consulenza per i delatori che volevano denunciare i pessimisti. Qui, ora, diciamo che ogni istituzione che si rispetti ne ha uno, che diversamente da altri uffici funziona benissimo.